muero con angoni, e puse vino bongo. La tuni era con ine, cosima, bafia, lero, yo bato, mato, soto, basi, tisa. Yeba! Thank you.